il sole accende l'ombra, l'uragano è già passato, ritorno al mio paese solo a soffrire, non vedo Oh, vai verso il vuoto, senza meta ormai. Non avere paura, ritorna fra noi. Hai provato tutto, una vita intera, in una luce falsa di credere. We'll be right back.

Thank you.